per le strade della città. Cala la notte, tutto buio si fa, mentre accelero il mondo va. Sembra tutto uguale a quest'ora, nell'oscurità. Il tempo mi divora, e sento bruciare dentro l'anima la voglia di averti qui. Sto cercando di raggiungerti in questo inferno di lividi. Tu sdraiata tra le lenzuola, in un attimo il problema sorvola, salto nel vuoto libero a metà tra sogno e incubo, cercando la sua vera identità. Nessuno mai lo saprà che vivi dentro ai sogni miei, principe. Capisco questa follia, sta diventando una malattia, scorre lenta questa agonia. Il sole